Siamo ormai a 3 mesi dall'anniversario della morte di San Pio X, il prossimo 20 di agosto. Il nostro appuntamento settimanale prosegue con il racconto, la lettura dell'intervista impossibile realizzata alla fine degli anni 90 dagli studenti, dagli alunni della scuola media di Tombolo, il paese in provincia di Padova, diocesi di Treviso, dove Don Giuseppe Sarto aveva svolto il suo primo servizio dopo la consacrazione sacerdotale. Fu infatti cappellano per alcuni anni in quella località. 3 mesi, dicevamo, all'anniversario. La celebrazione solenne è prevista per sabato 23 di agosto per permettere la partecipazione del cardinale segretario di Stato Monsignor Pietro Parolini, che presiederà la celebrazione eucaristica nel parco del santuario delle Cendrole. Raccontiamo ancora la vita tramite le parole così immaginate, ma molto reali perché basate su documenti veri, immaginate in questa intervista da parte dei ragazzi della scuola media di Tombolo anno 96-97. Stefano chiede idealmente al Papa: ho sentito dire che lei faceva molta carità. Come avrei potuto parlare di provvidenza agli altri se io per primo non avessi condiviso ciò che possedevo? Così risponde Don Beppi, Don Giuseppe. Spesso Don Antonio, il parroco di Tombolo, mi sgridava perché impegnavo oggetti ai Monti di Pietà di Cittadella di Castelfranco per ricavarne qualche soldo per i casi più urgenti. Io chiamavo questi oggetti, per esempio il mio orologio da taschino d'argento, gli alpinisti, perché salivano e scendevano il Monte di Pietà. Una volta un povero uomo mi ha chiesto 10 lire per andare a Verona in cerca di lavoro e gli ho detto: ah, scheino che no. E Gaio Sorgo, rispose il contadino. Sorgo sì, allora va a casa, prende un sacco, mezzo par mi e mezzo par ti, metà a testa. Va bene così? Grazie Don Beppo, grazie. Don Antonio diceva che la mia pignatta, la pentola era sempre vuota perché davo il cibo in essa contenuto a chi ne aveva bisogno. Come erano i rapporti col parroco, dunque, visto che questo Don Antonio viene citato spesso nei dialoghi? Il parroco di Tombolo, Don Antonio, è una bravissima persona, dice Don Giuseppe, ma purtroppo malato di tisi, una malattia ai polmoni che allora era molto diffusa. Mi ha subito voluto bene, mi apprezzava e invitava la gente a venirmi ad ascoltare. Mi ha chiesto di dargli del tu. All'epoca si dava del voi o del lei a chi era più alto in grado o più importante. Una confidenza rarissima tra parroco e cappellano. Io l'aiutavo per sollevarlo da qualche incombenza. Una volta ha scritto a un amico: Don Giuseppe Sarto è un buono e bravo cappellano. Attendete le mie parole. Presto lo vedremo parroco di una delle più importanti parrocchie della diocesi. Poi con le calze rosse e poi chissà. Don Antonio ci aveva visto giusto, perché poi lui diventò parroco appunto a Salzano, è stato nominato poi canonico della cattedrale a Treviso, poi vescovo a Mantova, patriarca a Venezia e poi appunto è diventato pontefice. Don Antonio Costantini, appunto, che tra gli anni 50 e gli anni 70 del XIX secolo fu parroco di Tombolo. A Tombolo Don Giuseppe Sarto si fermò per 9 anni, un po' l'accademia dei suoi servizi, chiamato appunto 9 anni come cappellano, poi 9 anni come parroco, come vescovo e invece un po' di più come pontefice, dal 1858 al 1867. Erano gli anni in cui il Veneto fu annesso al nuovo Regno d'Italia e quindi erano stati cacciati, allontanati gli austriaci. Anch'io avevo partecipato a questo evento politico organizzando le elezioni e compilando personalmente la lista dei candidati alla nuova amministrazione civica. In chiesa abbiamo cantato il Te Deum. Ero arrivato titubante e me ne andavo con grande tristezza, perché ai tombolani mi ero affezionato molto. Il vescovo mi aveva infatti nominato nel 1867 parroco di Salzano, un paese vicino a Mestre, e di Salzano Bolzano poi racconteremo dalla prossima settimana. Ricordiamo due importanti appuntamenti dei prossimi giorni organizzati nell'ambito del centenario di San Pio X. Il giorno 23, venerdì, alle 20.45 nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna, l'economia di mercato è un'invenzione italiana, non un'invenzione degli inglesi. Citazione del professor Stefano Zamagni. Come nasce un'economia di territorio? La chance dell'economia civile. Ci sarà come relatore Fabio Poles, socio fondatore, consigliere di amministrazione della Scuola di Economia Civile e già segretario generale della Fondazione Studium Generale Marcianum. Le testimonianze che si potranno sentire sono quella di Gianfranco Scola, che parlerà di un esempio virtuoso di sviluppo imprese nel territorio, l'esperienza di Amacrai Est Società Cooperativa, Paolo Belleri sull'impegno per la cura sociale e civile del territorio, l'esperienza della Fondazione Il Nostro Domani. L'economia di territorio, come anche Don Giuseppe aveva cercato di conoscere e di sostenere negli anni di Tombolo e poi negli anni di Salzano, la cosiddetta economia civile che poi ha portato al famoso miracolo del Nord-Est. Appuntamento dunque venerdì alle 20.45 all'auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna, ma poi si replica anche sabato mattina 24, stesso luogo. C'era una volta la città del lavoro. Ricerche e testimonianze su un distretto industriale. Evento promosso dal Comune di Montebelluna con il Museo Civico, la CGL di Treviso, l'Istresco, Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, e la collaborazione dell'Associazione Italiana di Storia Orale e il Comitato per il Centenario della Morte di San Pio X. Questo incontro intende indagare la rivoluzione industriale a piccola scala e alta intensità, e parliamo del distretto produttivo del Montebellunese, di interesse locale ma anche più allargato, perché parla di una situazione diffusa e drammatica. La Ruralopoli padana, terreno elettivo dell'industria diffusa del lavoro per tutti, lascia sul campo fabbriche chiuse, capannoni abbandonati e appunto tante difficoltà. Oggi si può analizzare questo fenomeno tornando indietro anche al Novecento industriale, artigianale, poi operaio, sindacale, manageriale. Gli interrogativi, appunto, per capirne le trasformazioni sono nate appunto all'interno del Museo Civico di Montebelluna con alcuni ricercatori, una serie di testimonianze orali. Si parte sabato mattina alle 9 con gli interventi del professor Alessandro Casellato dell'Università Ca' Foscari di Venezia, della professoressa Elisabetta Novello dell'Università di Padova, Stefano Piovesan, che parlerà del caso della Sanremo di Caerano San Marco, Giovanni Trinca sui preti rossi e il sindacato bianco in Destrapiave tra anni 50 e 60, Gian Giacomo Tessari, scarpe e veleni, la nascita della medicina del lavoro a Montebelluna negli anni 70. Poi Angela Trevisin, il Museo Civico per la Memoria del Novecento, una serie di testimonianze che vengono raccolte, Gianpier Nicoletti, 20 anni al centro del mondo, quadri tecnici dirigenti delle fabbriche dello Sport System Montebellunese. Poi una serie di interviste curate da Claudio Naccarati e Chiara Sacchetti per tutta la mattina a Montebelluna all'auditorium della Biblioteca Comunale questo sabato 24 maggio.